Mi hanno fatto un bel discorsetto, una cosa di 10 minuti fatta senza neanche concentrarsi. Guardavano i cellulari almeno 2 o 3 volte. Li ho visti proprio. Mi hanno fatto un bel discorsetto. Ecco tutto. Cosa mi aspettavo? Mi hanno detto che quando si chiude una porta si apre un portone, anzi si spalanca, hanno detto. Mi hanno detto di essere positivo, di valutare gli aspetti positivi, la possibilità di andare incontro a novità. E poi mi hanno detto che a loro dispiace molto e che loro in tutti questi anni sono sempre stati molto contenti di me, ma che il momento è quello che è e che loro si trovano davvero in difficoltà. Hanno detto che sono spaventati, che sono schiacciati dalle responsabilità, tanto che alla fine dei 10 minuti c'ero io che li incoraggiavo e li consolavo. Gli ho detto: coraggio, ce la farete, vedrete che ce la farete. Non so perché, ma me lo sento che ce la farete. Poi gli ho detto: arrivederci, buon lavoro, e me ne sono andato. Sono andato a piedi verso casa e ho provato a immaginarmi in qualcosa di nuovo, nuovi ambienti, nuove persone, ma poi ho pensato: mi hanno buttato. Eh sì. Mi hanno buttato. Che mortificazione. E adesso? E poi perché mi hanno buttato? Buttare una persona? Ma che modi sono? Lo prendi e lo butti così? Quello, la persona magari, è ancora viva, relativamente giovane. Quello, la persona, rimane male. E poi io mi chiedo, no, ma uno che è stato buttato, cosa deve fare? Per prima venne incredulità e incredulità disse: si tratta certamente di uno scherzo. E cominciò a guardarsi intorno, chiamando qua e là: ehi, voi dello scherzo, venite fuori, ogni bel gioco dura poco. Poi disse: non si tratta di uno scherzo. Allora venne sgomento. Sgomento si guardava intorno a bocca aperta, come se volesse parlare, ma non riusciva a dire niente. Allora venne vergogna. Vergogna ogni mattina. Si vestiva di tutto punto e andava in un bar e poi in un altro ancora, e in tutti quei bar faceva finta di essere in una breve pausa dal lavoro. Signorina, si sbrighi con quel caffè. Non ho mica tempo da perdere, sa? Devo andare a lavorare io. E venne tristezza. E quando qualcuno gli diceva: come stai? Quello confondeva un saluto per una vera domanda e rispondeva davvero, e al malcapitato diceva tutti i fatti suoi. Sono triste, tristissimo, sono disperato, esclusi i presenti. Sento che sto perdendo la fiducia nel genere umano. Porto allora venne spirito di reazione. Si svegliava prestissimo e si metteva subito al lavoro. Sì, aveva un lavoro. Certo, il lavoro bisogna inventarselo. E io me l'ero inventato. Il lavoro di cercare lavoro. Buongiorno, guardi, le ho portato il mio pedigree. Lo legga bene, in fondo ci sono i contatti. Rimango in attesa di un suo cortese riscontro. Distinti saluti. Fino a che venne Spossatezza. Spossatezza si infilò nel letto e si tirò le coperte fin sulla testa con gesto definitivo. Ma poi bussarono alla porta. Ma chi sarà a questo punto? Andò ad aprire e si ritrovò davanti incredulità. E incredulità disse: siamo sicuri che non si tratti di uno scherzo? E così ricominciò tutto da capo. E dopo incredulità venne sgomento, e poi vergogna, e poi tristezza e spirito di reazione, e di nuovo sgomento, tristezza, vergogna, spossatezza. E così uno dopo l'altro, per un giorno, per molti giorni, per mesi, per anni o secoli forse. Ora sto qui, da solo, che noia. Per fortuna ho un binocolo, e così la sera, quando cala il buio e mi viene la malinconia, io con il mio binocolo guardo la città. Guardo la città e mi sembra di stare in mezzo a loro. Mi sembra di poterli toccare. Tanto che certe volte mi scappa una parola, una frase, una qualche interlocuzione. Ma poi mi metto a ridere, perché loro non possono sentirmi. Li guardo, soprattutto guardo quelli che fanno le cose che avrei voluto fare io, e certe sere è bello. Medesimo, insomma, mi piace. Mi sembra quasi di vivere davvero tutte quelle cose. E allora mi addormento con il binocolo in mano e sogno. Faccio sogni bellissimi. Sogno che la mia vita ricomincia. Sogno che rientro nel tempo e tutti mi salutano e mi dicono: ciao, dove sei stato? E sai, sono stato fuori dal tempo. Fuori dal tempo non è possibile, fuori dal tempo non esiste. Ah no, vedi che esiste, te lo assicuro. Fuori dal tempo è questa cosa qua, che tu stai dentro casa e sembra che niente più succederà nella tua vita. Ah. Certe altre sere, però, questa cosa del binocolo non mi piace. Li guardo e penso che tutte quelle cose le avrei volute fare io, e che magari sarei stato molto bravo. E allora, altro che sogni bellissimi. Non riesco ad addormentarmi. non dormo nemmeno, nemmeno per un minuto. Proprio in quel momento mi accorgo che alle spalle dell'imberbe Milite c'è un quadro con una fotografia. E si dà il caso che la fotografia ritragga proprio il Presidente della Repubblica. E si dà il caso che la somiglianza tra lo sbarbatello e il Presidente della Repubblica sia evidente, sfacciatamente palese. Allora, in un attimo, faccio tutte le connessioni. Tiene la foto nell'ufficio, cosa che si fa per le persone care. Lavora per la Polizia di Stato, si somigliano, penso, eureka! Questo qui deve essere un nipote del presidente. Maledetto nipotismo!